Due affermazioni mi hanno particolarmente colpito tra le molte dispensate da Berlusconi in chiusura del vertice europeo di Hampton Court. La prima è quella con cui si è rifiutato di commentare il prezzo dei pannolini in Italia, che pare che sia più alto che altrove. Si è rifiutato perché lui ha detto ancora non li usa. Suppongo volesse essere una battuta e qualche sorriso agli interlocutori lo avrà strappato, ma è una di quelle facezie in realtà che vengono in mente soltanto a chi in qualsiasi circostanza ha in mente soprattutto se stesso, e al proprio ego è solito riferire ogni cosa. Anzi, avete notato che a questo genere di pulsione così radicato nel soggetto da indurlo talvolta a veri e propri fraintendimenti. Nel caso è probabile, come si evince dall'uso dell'avverbio ancora, che il Berlusca abbia confuso i pannolini con i pannoloni. Un articolo notoriamente rivolto a un target di persone in età, e abbia quindi voluto precisare, un po' per ceglia, un po' perché a certe cose lui ci tiene, di non essere abbastanza anziano per averne bisogno. Di pannolini per la prima infanzia non si intende e non si interessa, anche se in verità ha avuto abbastanza figli e nipoti da alzare da solo la media della natalità del paese, ma sono cose del passato e a lui, si sa, il passato interessa poco. L'altra affermazione, degna di nota, riveste un interesse, diciamo, di natura un po' più formale. Ricamando come suo solito sul tema dei segnali di ripresa che lui e pochissimi altri riescono a leggere nella situazione economica corrente, il Silvio Nazionale ha auspicato, con probabile riferimento ai suoi avversari politici, che i menagrami la smettano perché fanno il male di tutti e dell'Italia. Ed è caduto, se la citazione è esatta, io la prendo da Repubblica di venerdì, in un clamoroso infortunio grammaticale, perché i composti di quel tipo, come risulta da qualsiasi buona grammatica, in italiano al plurale sono rigorosamente invariati. Si dice in menagramo. Ed è ovvio, no? Perché se a menagrano sono più persone, non per questo portano grami. Una forma che rappresenterebbe il plurale di un collettivo e quindi va evitata con la massima cura. E poi rompighiacci non è il plurale di rompighiaccio, e quello di ammazzasette non fa ammazzasetti. Oddio, i pedanti come me spingono il rispetto della regola fino a dire pomidoro e non pomodori, ma è un caso diverso e lasciamolo pure lì. È un errore tutto sommato abbastanza comune, affatto veniale. Ma da uno così avvezzo a vantare l'eccellenza dei propri studi ci si aspetterebbe un minimo di sforzo di precisione in più. Dai salesiani, dove ha studiato, se lo avessero sentito dire menagrami, gli avrebbero inflitto come minimo un penso di 20 pagine. Forse, se si concentrasse un po' meno su se stesso e un poco di più sulle regole e le norme che valgono per tutti, il Presidente del Consiglio ci guadagnerebbe un po' in simpatia, che è una cosa di cui oggi ha sicuramente molto bisogno.